Ti ricordi quel modello vecchio che non c'era bisogno di di fare la commutazione per andare in AM in banda laterale, ma tra l'altro cancelli quello e io sono a posto. Va bene. Ci riesco a trovare da quel prezzo, me lo prendo anche io, ma è giusto perché così niente di... non è vado matto, devo dire la verità, non è vado matto, però mi piacerebbe averlo. Io ne ho preso due in uno, perché per quella storia famosa, capito? Ho perso in pratica l'affare e quindi mi sono incazzato e a un certo punto ho preso e ho investito quei soldi in due apparati. Ho preso l'Aitone 55-55 e questo qua, 300 euro spesso. Volevo pigliarmi in pratica 380 euro e invece mi è andata male. Hai capito? Fidandomi degli amici, come si dice, no? Per farmi il versamento, invece niente. E quindi meno male non l'ho fatto. Se non avrei perso 150 euro e mi sarei inculato da solo, mi sarei inculato il mese scorso. Ho capito. Allora io ho notato adesso, Antonè, però che ti sei abbassato di radio, ti sei abbassato di radio, forse non so se hai toccato qualche cosa, era più amplificata prima. Bene, Antonè, quelli io sinceramente parlando ormai, forse perché si cresce e tutto quanto, non si chiamano amici, ma si chiamano conoscenti. Il vero amico non si comporta così e già lo sai. Niente, ti ripeto, no, lo volevo prendere per metterlo nell'altra stazione che ho fuori, diciamo, dai, quella dove mi faccio dei lavoretti, insomma, che sto un po' fuori, volevo prendere una radio un pochino più selettiva di quella che sto utilizzando adesso, anche perché là è una bella radio, però è 23 canali, quindi insomma volevo mettere qualcosa di più sostanzioso. Vabbè, è fatto bene, adesso va bene, comunque ho abbassato in pratica poco fa l'amplificazione, adesso va bene, tutto a posto. Adesso sì, come di prima e va più che bene ancora. Così. Dimmi una cosa, ricordati, oppure guarda, tanto ce l'hai lì, quelle valvole da quanto sono? Le 509 o le 519, come erano? Dovrebbe essere le 519, bisogna che controllo, ce l'ho dentro una scatola, ce l'ho. E quelle quanto danno di watt, Antone, l'una? Gli stessi watt della 509, sono in pratica uguali. Sono uguali, io pensavo che era qualcosa in più, diciamo, dai. No, sono uguali. L'unica che ha in più è quella americana che monta lo speed della CTA che ho io, quello vecchio, è americana, solo una, basta. Ho capito, pensavo che faceva qualcosa in più, nel senso che essendo di maggiore di numero, non so. Va bene. No, sono uguali, 509 e 519 sono tutti entrambi uguali, sono i corrispondenti, capito? Tutto lì. Vabbè, ci sono lineari che montano due valvole, che le montano a sola, ce ne sono parecchi in vendita adesso, ho visto. C'è il Bufuccio 132, mi sembra che era, poi c'è il 31, poi c'è un'altra ancora, eccetera, eccetera. Quindi, ma comunque sia, vanno bene. Io ho lo speed CTE, ma è lo vecchio, quindi figurati tu, una valvola sola, ho cambiato i condensatori e già pompa, ho visto, già è tranquillo. Sì, va bene. Ma tu però mi devi fare una cortesia, quando ti capita qualche cosa, se ne avvisi, perché se lo vedi qualcosa del genere mi chiami, lo voglio fare anche io. Cosa hai preso tu quello lì e poi un'altra cosa hai preso? Certo, la Vittone ho preso. I 55-55. Sa 15 watt uscita, fare No, 27 e 10 metri fa. Lo stesso prezzo di questo. C'è il frequenzimetro grande, non picco, frequenzimetro grande, quindi basterei che guardi. C'è scritto Ani con la Y, poi c'è Pone, a T 55-55. Guarda su Facebook, su YouTube, quello che è. Di lusso, un apparecchio veramente bello, c'è l'eco e eccetera eccetera. Allora, ce l'ho preciso io, però si chiama diversamente il mio, è preciso identico al mio, il mio però si chiama HR5500, capito? Ah, ok, allora sei preciso, non c'è problema. Sì, ma anche poi è, diciamo tra virgolette, un sostituto del Pluto, non è che sia... Vabbè, ma funziona benissimo, la verità. Va bene, è come avere un Saturn-Eco in miniatura, stare uguale, non è che cambia molto. Bravo, infatti l'ho preso per quello, l'avevo preso da... da Gian Maria, ma una stupidaggine mia, cioè questo non è proprio in scatola, proprio mai utilizzato, anzi l'ha preso, l'ha aperto, l'ha acceso, ha visto che aveva, sai che ha i numeri arancioni e poi dove ci sono i cani invece è verde, no? A lui non gli piaceva perché aveva tutto un colore, allora l'ha rimesso in scatola e si è conservato nella radio. Ma io ho pagato 150 euro a vetta questa, non ho pagato neanche molto. E guarda, costa nuovo 150 euro. Se tu guardi, ce l'ho qua davanti su Amazon, costa 150 euro, nuovo nuovo, con garanzia e tutto, no, io l'ho pagato molto meno. Quindi vabbè, più la spedizione, figurati, cazzo, fai come ho fatto io, lavorati. 68 euro, baracchina omologata, cazzo, non ti preoccupare, pigliati quello, cazzo. Sono arrivato a casa, tata la via, ma perché c'è il coso, c'è il lockdown. Come piglio più roba leggera e bino, non saranno. Allora, aspetta un attimino. No, consegna, bla bla bla bla, entro 2-3 giorni, no, questa addirittura non c'è niente di spedizione, la spedizione qua è gratis, 150 euro nuovo. No, quello che ho preso io l'ho preso di meno, l'ho preso a Sasso da Gian Maria, te l'ho detto, no? Sì, me l'ha detto poco fa, quindi vabbè, sono andato bene lo stesso, non è che sia andato male, no? È nuovo nuovo, sì. Quindi luci, cioè, nuovo di pacca proprio, con la scatola e tutto. Sì, mi ha dato anche la scatola, è marchiato Intec, non è nuovo. No, il mio non è marcato Intec, la verità. C'è scritto 10 metri nel fianco e come se volevo usare parecchie da rematori quel cazzo di apparato, comunque va bene così. Mi sono fatto un regalo, a posto del 680, dato che il 70 me l'ha fatto prendere, a un certo punto mi sono preso due apparati assieme, due conchiglie a un certo punto. Greco. Va bene, hai fatto l'affare, ti sei fatto un regalo, è periodo di affare, quindi va bene, avanti. Ui, buonasera a tutti e due. Ciao Natalino. Sparato. Greco. Tutto sparato, registrato. Natta, tutto sparato, sì, quasi 9:20. Sono basso di coso, di watt. Sì, registrato Greco. Natta, qua leggo 9:20 con picchi positivi a 9:22, quindi va più che bene. C'è un Greco, va. E ciao Tino, buonasera, ma mi sentite o no? Andabex, buonasera. Sì, a Buglia. Perché sto uscendo con un'antenna di gomma, non so se mi sentite con questo portatile. Sì, sicuro. Via, mica attacco l'antenna d'alluminio, sì. non vi credo, noi siamo assolutamente dal Blasiga Ricci. Ah, quindi vi siete anche dato l'Arico, ma guarda un po', ragazzi. Poi adesso rimarrà un po' più sparato, perché... No, ho già sparato. Sono basso basso. Vabbè, ma... qua, vabbè, non è frazione, prima arrivavi così, adesso vabbè. Non mi ricordo quanto, ma credo intorno ai 9. Adesso sei 9.20, 9.22, va più che bene. E io allora quando piatto l'antenna nuova. Spatti il culo agli uccellini. Tu zitto che sei cotto. Magari, yes, magari. Sa so, che ti ho una patallata, sono in ginocchio, guarda. Domani mi coccerò se mi vuoi a me. Domani. Mi faccio tutta la strada, cazzo, tutta a piedi, la stessa di vecchio, fino a cosa, da destra a sinistra, sinistra a destra, non mi fermano, ma lei ce l'ha il Green Pass, no, vedo, c'è una sbronza, la vuole, l'accompagna pure, dico. Dilli che c'è la piugliola. allora sì, domani. È Natale. Ehi, chi è avanti? Ah, che tu mi ascolti, sì. Beh, con le orecchie qualche volta. Ah, meno male mi ascoltate, ero convinto non mi sentivate. Non mi costringete a mettere l'antenna all'uminio, sì. Ehi, chi ti vuole costringere a vero, a punire l'antenna a vero, non di a buffonendi. Magari come altri tempi, va. Se c'era competizione, c'era gente, c'era insomma più movimento della banda cittadina. Ma come mai Alessio sta uscendo bene di radio? Boh. Allora Alessio deve seccarsi le mani, non deve toccare niente, ma soprattutto non deve prendersi quello che ha ora. Questo è un consiglio che gli do, poi ognuno in base alle sue esigenze fa quello che le piace. Questo è un consiglio, Antonio, che ti do col cuore. Ma tu sei di quelli che quando esci bene te lo vendi, perché ti piace uscire tutto spompato. Aspetta, ho capito un tubo, perché sono andato a prendermi la pizza dal fornetto. Mi stanno dicendo esco bene con questo apparecchio qua, perché di tenermelo conto, qui mi hai detto. Praticamente sì, di non vedertelo, di tenertelo, di lasciare quello, di non toccare niente soprattutto. Ok, va bene, allora ok, volevo sapere se lo mette quello. Me l'hanno detto tutti la verità, eh. Allora, io sai, la roba mia è sempre la migliore, funziona sempre bene, il discorso è quello, chissà perché. Ma se non vivo in Luca ci avete dentro? No, ho messo che ci avete dentro, la verità. E esce benissimo questo apparecchio qua, ho avuto fortuna. E beh, due volte con Saturnetto. Tutti e due ho venduto, uno ho venduto 150 euro, quindi figurati tu, questo l'ho comprato 150, ho modificato la stessa modifica, tanto che i watt erano già modificati, già gli altri, la verità, quindi tutto lì, se lo lascio così com'è, non ti preoccupare. E a proposito, l'iPhone l'ho guardato e non ci può fare nulla, non puoi toccarlo, quindi si attacca al tram, chiunque sia, si attacca al tram, perché c'è la M modulazione ma non c'è l'LC. Laga, sta tutto com'è, perché se lo tocchi prendo una mazza da baseball e vengo lì. Lo so che prendo una mazza, non ti preoccupare, ti ho detto che lo lasciamo così come te l'ho promesso, ho solamente guardato e basta. Ci sono i trim, cazzo, che sono grandi quanto posso dire, più piccoli del telecomando della TV. Sono piccoli proprio trim, quelli che se perdi la palla che ce lo butti in pratica. Tutto il microprocessore è come il presidente Lincoln. E fai un blocco di saldatura completa e sei a cavallo. Con quanti watt stai uscendo adesso, Ari? Su questo Saturnetto, 15 watt sono. Già stai uscendo bene, là. Anche l'altro esce bene, quello che non voglio toccare io. Lo so. Queste 15 watt, l'unica cosa, devo sistemare di l'eco, basta. Ma per il momento adesso non sto pensando all'eco, questo giorno qua. Se vediamo un po' domani mattina, domani sera quando finito di fare, siccome stavo facendo dei lavori a casa di Giovanna, quindi vediamola. L'eco lo metterà a posto un altro giorno. No, l'eco proprio non è che sia una cosa, non lo usa nessuno. Cioè l'eco è stato un eco, non è un eco, non è perdere più che altro. C'è un eco del 4000, esce uguale, anzi forse un pochettino più forte, ma per altro. Ecco, lascialo così, non avevo neanche alcun fraddo, ecco, cosa te ne vai? Nulla. Riprenditi che mi sto mangiando la pizza. Io ti ho sentito anche da un'altra radio e però poi hai avuto la splendida idea di invendertele e prendere sempre qualcosa di peggio, a mio parere. Questa cosa ti sto dicendo adesso che hai una radio che va bene, finitela. Ma quella lì sempre cambia, tanto diciamo la verità che noi abbiamo conosciuto, come l'hai nominato tu poc'anzi, il Presidente del Lincoln, che era una bellissima radio, lo è tuttora, ma anche lì ora ha i suoi anni, quindi insomma io quando ho preso questo LHR 5005, un Inter che vabbè lo proviamo, invece insomma mi ha dato qualche piccola soddisfazione, poi ho fatto una accoppiata con un valvolare, mi ha portato bene, non va in saturazione, no, insomma tiene bene, poi vabbè diciamo che una sorta di cacciavite c'è stata, perché l'ho voluto diciamo così aumentare di fatto di picchi di modulazione, non me l'ha fatta uno stupido, me l'ha fatta uno che sul banco ci sa lavorare, quindi mi è andata bene, ecco, mi sta tenendo e va bene così, però è una radio più recente, non è più come quelle che conosciamo noi, che hanno loro anni, nonostante tutto, io ho avuto tre Galaxy tutto, per carità, nuovi, bellezza esterna, diciamo da vetrina, però all'interno oramai aggiustavo un pezzo, si rompeva un altro, insomma sta passando un po' anche un pochino troppo tra elementi, componenti e rotture di scatole, tra andare a portarle e ballare, allora ho deciso, gli ho regalato praticamente al tecnico, gliel'ho regalato e niente, però mi ha fatto qualche lavoro in particolare su quest'altra radio, capito? È quello che voglio dire io, poi vedi un po' tu. Buon Natale! La mia radio com'è? Oddì, dalle tue parti. Come ho detto, va bene, ho fatto subito il segnale che insomma migliorato. La radio è bella amplificata, va bene. Buonasera. La radio come un cuocuomane. Sì, certo, non come quella di Pedibella, comunque. Mi è parso che è entrato anche Gianni, se non mi sbaglio. Pedibella. Buonasera a tutti, là. Ciao Gianni, ciao Luca. E quindi Franco. Adesso entro io, ciao Gianni e ciao Lucariello, KK. Sì, ciao Tino, Gianni, Natalino, Zio Franco Calipone, la gente di qua, vita mia, di Pedigab, frate. È inutile, va, questo è così, è nato così, lo costo a piccolino, quindi. Ci ho fatto male, cazzo, ci ho fatto male veramente. Vabbè, provo su bipolare, bipolare, un po' adesivo. Un'onda intera è Luca. Ha giudito che sono fatto male, lo ammetto, sono sincero, ma non sono bipolare, sono due cose diverse, avanti già. Aspetta lui, a proposito, devo chiamare, dai, ti faccio una massa. Ok, chiama. Io ero in giro per Sassa, mi sto rientrando adesso, c'è festa da tutte le parti. Bello, veramente bello, mi entusiasmato. Cosa già? Ho detto ero in giro per Sassa e c'è festa da tutte le parti. Mi ha entusiasmato, ho detto vedere tutte queste luci, tutte queste proiezioni nella provincia, eccetera. E poi c'erano i Babbo Natale che ballavano in sardo, c'era un sacco di roba. E c'era anche il presepe vivente lì al mercato, ci siamo andati a vederlo. Io non riesco a capire cosa dice, chi è fra Franza. Figlia, ma non mi ascolti? Ti ascolto Gracchianze. Gracchianze. Natali, come ti sto arrivando a te? Radio 5, benissimo, che siete troppo vicini ed è questo che li sta imballando lo stadio ricevente. Gianni. Sento male, Fra. Sto Gracchianze. Io sto usando un altro apparecchio adesso. Hola, 1, 2, 3. Faccio la tua ricezione. No, non la mia ricezione, perché già ti sento bene. Natali, bene mi senti tu? Solo che arrivi in 9,60, ricevi barrendi tutti in chivi. Deve essere, ma attaccato. Ancora attaccato, sto uscendo con 10 watt. Vabbè. Strano, però ti sento così. Che apparecchio stai usando? Adesso sto usando l'altro, il grande. Che scappa. E allora è per quello. Allora è per quello che sta strappando così. Strappando 10 watt sta dando ai modulati. E da me è così, Fra, ti sto dicendo, se no la registro te la faccio sentire. Io ti dica che sto strappando, va. Posso cosa dirti già? Non lo posso mettere più basso di 10, eh. Vabbè, non c'è problema. Guardaci che questo apparato non ascolti bene. Anche Tino sta usando il capo, vero? Tino sta telefonando a Luca. E io sto scendendo lo stesso basso. Tu sei chiarissimo, Natali, tu fronte a Franco. Franco è tutto gracchiante, come quando si va alla laterale, ma che si risplatter. Perché siete troppo vicini, ti sta saturando lo stadio finale ricevente, mi. È per quello che lo senti così, siete troppo vicini, siete. Prova a attenuarmi. Che lo senti bene. Ti sento bene. Buonasera. Buonasera. Oggi da te come mi ascolti? Perfetto, segnale 8, radio 5, perfetto. Ciao Gianni anche, ciao Franco, ciao a tutti, dai, Natalino. Gianni, attimo, provate che come sta dicendo Natalino, che siete troppo vicini ed è per quello. Sì, ma io ci metto poco, c'è un apparecchio, vediamo un po', perché questo qua magari è più sensibile, capito? Sì, provate sì, però non sta uscendo bene Franco, sta uscendo, abbastanza chiaro. Anzi, una bella modulazione anche. Allora, ti fa. Capo, no, sto usando l'altra radio, ho capito, Eugì. La stavo provando perché ce l'avevo sempre spenta e l'ho messa in funzione. Si sente. Comunque non sono Eugenio. Ma Franco di sorso, ogni volta mi confondo. Vabbè, più o meno stiamo usando tutte le stesse radio. Perché, ho detto, sembra strano, perché questa radio non mi ha dato mai problemi. No, è che sei troppo vicino e gli arrivi in saturazione a lui. Gli saturi lo stadio ricevente, mi. Perché siete a un tiro di schioppo. Poi tu nella posizione che sei un bel in alto. Franco, 5-9 il tuo rapporto è qua. Buono. E vabbè, sto usando anche. Senta, guardate, sto usando 40, quasi 50 modulati. Io ho 10 modulati in 20. Spinge questo microfono, non pensavo che... Adesso me lo guardo, quando lo guardo me ne accorgo. Per carità. Ma non lo avevo mai notato, guarda. No, già va bene. E io lo credo. Natalino! Uia Fra, non posso aumentare perché finché non piazzo l'antenna nuova non ha zunda. Bene qua, c'è un segnale di 7, modulati a 8, radio 5, va bene. Lo so, è che purtroppo ho l'antenna tutta messa male. Piano piano. Piano piano, come cominciano le belle giornate, te la piazzi. Se stai arrivando con questo segnale adesso, dopo dovresti arrivare meglio. Oh Franco, scusa un attimo, guarda il segnale con questa, un'altra radio questa. Questa sì, un pelino a 9 arrivi. La modulazione va bene? Sì, bella anche questa. È meno schiacciata, però è bella. Vabbè, questa è un'altra radio. anche questa l'ho messa in funzione adesso e stavo guardando appunto se stava andando bene, perché c'è gli uomini di tempo fermi, capito? Questa è chiarissima, fra. E cappa, l'altra eri troppo, ero troppo, magari troppo, troppo vicini, capito? Quindi va, ti va, vai a ascoltare in saturazione, è diversa radio già. Questa che è chiara, chiara, chiara, tutto limpida, recuara. Questo è l'MB più 4, Sì, questa va benissimo. Allora, risultava come se tu fossi in banda laterale che una M, capito? Così. E vabbè, utilizzo questa, dai, va bene lo stesso. Ogni tanto l'accendo l'altra, ma non è che la sto usando più di tanto. E quella che sta prendendo? Non prendo niente. Quella c'ho più delicata. No, quella lì non la vendo perché ascolto sulle frequenze radioamatoriali, capito? No, non hai capito. Ho detto che conviene, conviene usarla. Perché quella è più delicata. Lo so, vabbè, ma se mi ascolta in saturazione. Purtroppo, fra, non la posso fare uscire a meno di 10, capito? Lo so che non la puoi far uscire, purtroppo se siete vicini è quello il problema, non è niente di particolare. Allora, di Gianni. No, non è così, perché con questa arriva chiarissimo, con l'altra no, con questa arriva chiaro. Probabilmente c'è una, forse la frequenza più stretta con l'altro apparato, non lo so. Ma non è cosa di Franco, però non è cosa tua, perché noi l'ascoltavamo bene. Ma io a voi vi ascolto bene, come mai? Boh, cosa ti posso dire? Non lo so. Passiamo in FM. Che provincia? Perché qua c'ho un po' di fifa a parlare qua. Dai, proviamo. Poco fa gliel'ho detto, perché si è abbassato tutto in un colpo. E adesso è sempre uguale? Adesso sì. Com'è la radio mia invece, che non ho mai toccato questa cosa qua in FM, com'è? Ma così, seccati le mani. Va bene. L'unica cosa, guarda, che tocco è l'eco di questo apparecchio qui, non tocco nient'altro, tranquillo. E la lascio così, questo è il secondo Saturn Echo che esce bene. Tranquillo, non tocco niente. E tu sappi una cosa, se volevi vendere prima mi devi interpellare. Va bene, non c'è problema, nel caso dovessi venderlo, tranquillo. Ok, cazzo, la 87, è stato un ecco, guarda, sono anzi 1-2, poi c'è anche il Codex 4000 che esce bene. Sono tre apparati che escono uguali, la verità. Invece il 39, boh, dopo 20 anni ha perso efficienza, la verità. È andato in tinta ormai, dopo 20 anni, cosa vuol dire? non l'ho mai toccato. Adesso bisogna che lo faccio revisionare quell'apparato lì e me lo faccio sistemare il 2009 mio, originale. Guarda questa la radio com'è, 1, 2, 3. Adesso va bene. Ma questa è un'altra radio però. Cappa, questa è un'altra radio. Vabbè signori, io dai, mi devo spostare, che devo prendere un po' di legna, fare un po' di cosette qua a casa, cose casalinghe più che altro, dai. Quindi ne approfitterò io ormai che vi saluto e vi faccio gli auguri di Natale e niente, se coincide ci sentiamo anche nei prossimi giorni. Dai. Ok, rilancio il mic a Franco di Sorso. Così ci sono per capire, perché sono un po' siete due franchi e quindi non si capisce. Vai Franco, aspetto i saluti e poi vado via, dai. Ok, ciao Tino, se non ci sentiamo allora buon Natale, buon tutto, ce ne ascoltiamo le prossimine, a te in famiglia. E saluto anche a tutti quanti, faccio gli auguri di Natale a tutti. E niente, ce la ascoltiamo le prossime, stiamo chiamando a mangiare. Avanti Franco. Ciao Tino, fatissimi auguri e di buon Natale, buon tutto. Ciao a tutti, anche per me QRT, e ce la riascolto a tutti alle prossimine. Auguri a tutti e buon Natale per tutti, anche a quelli che sono in ascolto. Comunque questa va bene alla radio, sì. E già va bene, Fra. Salutoni Tino. Franco, l'altro Franco, Alessio, anch'io me ne posso in quel RT, dai, alle prossime, salutoni a tutti, buone feste. Ok, io vi saluto tutti, allora, a un certo punto devo fare la lista della spesa che sta passando in quel RT, vi saluto a tutti e non c'è problema. Buon aperitivo, buona giornata per domani, buon Natale e buon Santo Stefano, buona Pasqua, buon Caporano, eccetera eccetera. Chiudo io, ciao Antonio che non ti ho salutato, ciao Natale anche a te e ciao Franco, i Franchi. Ciao a tutti, ciao, sto chiudendo, ciao. Ciao Antonio, ciao, buon QRT, buon tutto e tanti auguroni anche a tutti, dai. Ciao anche per me QRT, ciao. E ciao, fra, adesso ti sei abbassato, ho già preso il barchetto. Sto usando un'altra radio, Antonello, capito. Sicuramente c'è qualche problemino, devo fargli la regolazione di FM qua. Sì, devi fare la deviazione. Senz'altro, è come te, io, il mio 3009 è uguale. Che ci aveva dato al fumo, ma io ho 20 anni però, il discorso è quello. Queste radio nuove con questi trim, mi pare che questi trim facciano schifo, ma che dopo un mese e mezzo che li usi se ne vanno in tilt. C'è da fargli la regolazione dal trim da dentro, ma adesso non io voglio toccare niente. Oh, Antonello! Eia! Il mio come va il 3009? Qua? Ma sei da M o sei da FM tu? In FM sono. Oh, ma te tu sei basso. C'avevo il macchine a metà. Ah, ecco perché. Cazzo, allora, anche lui c'ha problemi di macchine, perché c'ha lo stesso, c'ha lo stesso difetto di Franco. Quindi Franco deve toccare, mi sa, non è il trim. Ma direttamente il marchio gli sfrutta un po' di CVC e vedrà che funziona. Ah boh, non lo so, io come sto andando, questo è l'MB più 4. Va bene adesso. Guarda adesso Antonio, 1, 2, 3, 4, 5, sì. È aumentato un po', però questo è il potenziometro esterno. Avanti Alghero, buonasera, Sassari che ti ascolta. Sono un altro radio lì, non è che mi può dare qualche indicazione e vi ringrazio moltissimo. Segnale 7 radio 5 a bomba. Ok, grazie, così almeno so che sta funzionando. Ciao Mirko, buonasera, 5-7 qua la mia stazione. Ma cosa hai sentito fa? Era partito, eh. Mica. Vabbè dai, ci sentiamo, faccio QRT io. Ok Natalia, buon QRT, alle prossime ci sentiamo. Avanti. Che fruscio, chi è? È sparito. Vabbè dai, ciao, e chiudo. Ciao Antonello, ciao a tutti, dai, QRT per me. E via, ciao fra, ci sentiamo domani. Buon QRT, buon tutto. Hola. Hola, hola, hola, hola. Ma dove tu sei? Che buchi c'era? Non penso ce ne siano altri con questi segnali. Forza, lo sai che è forte, quanto te, se non chiudi te, sino quando non si mette l'antenna è Carlo. Carlo arriva 9,50 e oltre, con 5 watt, con l'antenna, un dipolo verticale, messo in verticale. E lo so, già l'ho visto, mi ha fatto vedere la fotografia. Questo è stato usato da Eccovi, adesso, quindi esce molto meglio degli altri apparati, sono provate come una volta. Forte, chiaro e comprensibile. Ma di te stai parlando di chi? Di me. Te l'ho detto l'altra volta che non eri mai uscito così bene, Antone. È uscendo pulito, chiaro, non hai ronzino, non hai motoseghe, ed c'è spugliato il vicino, e prima era tutto un rumore. Lascia così, non toccare niente, neanche le C e cose varie. Lascia così, va benissimo. Le C l'ho toccato, caro, non ti sei neanche accorto. Un po' più alto, infatti ho detto, mi pare un po' più alto del normale, ma pensavo fosse il microfono, e che bisogno c'è di alzare così tanto? C'è bisogno, perché io i sacco li ho sempre usati così, che sono i migliori. Certo, toccati da me, i sacco sono sempre stati... sempre stato fortunato, è stato Neco 2009, all'87, quello che in parte causava Bombolino, e ce l'ho io, a casa in prova, perché l'altra volta avevo fatto un difetto strano, comunque sia, sono dei migliori apparecchi che io ho sistemato. Sono una bomba, sono gli unici che vanno benissimo. Ma che microfono sta usando? MB4 o più 5? Elisabetta sta usando. Quello dell'altro giorno? Perché? No, volevo capire perché sembrava un MB più 5. No, Elisabetta, sempre lo stesso, Sempre quello. Non c'è nessun altro? No, non c'è nessun altro. Siamo io e tu e le rose. Lo stavo dicendo io e tu e le rose. Chi la cantava quella canzone? Che si chiama quella che cantava la Marcavala? A fare Napoleon mi viene il nome, come si chiama? È Pompetta. È Pompetta, ecco. Ebbene, Luca. Sbaglio un frigo mio di arco, io che viene a bere con me? Tu arco voi, ieri stamattina sono entrato a lavorare, sono passato nella mia via, l'hai visto? C'era interna una bottiglia di vodka a metà, dei bicchieri in vetro e un altro bicchiere, bottiglia di non so che cos'era, superalcolici. Invece sono, è una bottiglia di tè, uno di quelli statente, giusto? No, io sono i voi, giuro. Quindi sono chiusa ancora, sigillate. Guarda, io le tate, io penso sia la cosa più schifosa, cioè finché uno se lo fa a casa il tè, ma prendere un tè del genere, chissà cosa ci mettono, tutto liofilizzato, l'acqua chissà che va per bombini, tutto conservato e cose del genere, c'è la cosa più schifosa che esista. Cioè mia figlia lei è fissata con questo tè alla pesca, ha detto ma fatelo a casa che è molto meglio, se lo prende quelli con la cannuccia, qualcosa, ha detto, mica è uno schifo, se tu li vedi come le fanno non ne bevi più. Comunque mamma ti stava ascoltando, vabbè. A 5.25 e basso ti arrivi di radio. Diciamo mi sono dovuto abbassare lui perché mi ha detto che ero troppo forte. Ti hai presente il microfono è a 1 e senza processore e senza niente. Se alzavo la radio uguale, l'altro giorno mi hanno detto abbassare che ero troppo forte. Veglia. Dai, riprendi un po'. Un attimino devo andare in bagno, no? Arrivo subito. Guarda Luca un attimino, faccio solo una prova. Già va bene. Dove? Luca. Dimmi. Prova di nuovo come era prima, 525. Vai, prova Robert. Adesso sei arrivato sparazzo. Certo, però al minimo Luca, adesso sì, ma adesso, che non le ascolto forti, capito? A te era l'unico basso, adesso sì. Mi ha detto abbassarmi Luca, perché finché fai i collegamenti lontano ci vuole il processore, però qua in città stiamo parlando, discutendo salotto, dai, facendo salotto, e mi dà niente, dice mi stai assordando, allora ho dovuto togliere il processore. Comunque gli arrivi bene. Arrivi bene adesso, va. Intanto male li avevo ascolto. Io andavo avanti, buon po', riprendi, bianco per un attimo. Cazzo,